Pronto? Titi, sono Matteo. Ciao. Ciao, ti disturbo? No, no, no, sono in ufficio, dimmi pure, Senti, stai là lì. solo una roba, volevo capire perché mi serve per la puntata di oggi. Voi esattamente, cioè, da quando avete trovato la casa? A quando ci siete entrati? Quanto è passato? 3 anni e mezzo. Secondo te la casa quando sarà finita con l'arredamento, tutto pronto? La casa sarà finita per settembre, tutto l'arredamento. No, ma aspetta, dunque no. Allora, Madi ce li sta facendo, il nostro amico falegname. Potrebbe essere pronto per il matrimonio. Cioè per luglio? Sì, Poi c'è luglio. fuori anche. Il fuori adesso dovrebbero partire tra una decina di giorni, proprio perché per il matrimonio volevamo aver la facciata fatta. Giusto. Boh, Tiz, scusami, dai, ti lascio andare che vado in studio, allora. Volevo solo Ma capire questa roba figurati, dei tempi. Ti ascolto, mando un ti bacio. ascolto. Ciao, Titi. Ciao bello, ciao, Ciao, grazie, ciao, ciao. ciao, ciao. Lei è quella donna meravigliosa di mia sorella Tiziana che ringrazio per essersi prestata inconsapevolmente ovviamente a questa roba. Spero che non si arrabbi se ho mandato in onda una telefonata che abbiamo fatto fuori onda, perché oggi è di questo che parliamo. 800 24 00 24 349 238 6666. Se state entrando in casa vostra, se la state preparando, se l'avete comprata e la state sistemando, voglio sapere esattamente come siete messi, da quanto tempo ci state lavorando, quanto non ce la fate più e quando è previsto che entriate.